comunicazione per un uso corretto della loro immagine, lontano da abusi e strumentalizzazioni. Sul sito cartadimilano.org potete sottoscrivere e condividere questo impegno. Mi piace ricordare l'articolo 6, i bambini, sono femmine, sono maschi con lo stesso diritto a essere rispettati come persone a tutto tondo. La comunicazione non deve rappresentare il genere in categorie fisse, esaltando attributi di virilità e forza da un lato, di dolcezza e remissività dall'altro. Questo secondo me è un punto molto importante che tra l'altro in qualche maniera si riallaccia a tutta una serie di discussioni che negli ultimi anni sono state fatte sul corpo della donna in pubblicità e nella televisione e che secondo noi devono partire da come già l'immagine femminile viene utilizzata già dalla prima infanzia. Di nuovo in studio con Essere e Avere, lo sapete che anche i paesi possono essere classificati come brand, come le grandi marche, in base a categorie che spaziano dalla notorietà alla capacità di autopromuoversi. È quello che fa ogni anno il Country Brand Index, un indicatore che ci racconta molte cose sulle trasformazioni in corso a livello globale. Ma perché trasportiamo solo Ferrari? Perché le Ferrari sono un mito in tutto il mondo. In America, in Cina, in Australia, in Faubasia. Dove? In Faubasia, dappertutto, pure qui in Arabia. E queste dove le hanno rubate? Ridaglia con sta parola, scordatela questa parola. Qui non c'è niente di rubato. Le Ferrari poi non le ha mai rubate nessuno. Le Ferrari sono di tutti, sono patrimonio dell'umanità. Però come la Cappella Sistina, ecco. La Cappella Sistina di chi è? Del Papa? No, con rispetto parlando non è del Papa, è dell'umanità. Così è Ferrari. Quanto vale il brand Italia? Già, la marca Italia, al pari dei suoi simboli commerciali come la Ferrari citata in questo spezzone del film Italians. Quest'anno esce dalla top 10 e scivola dal 10° al 15° posto del Country Brand Index, la classifica annuale dei brand paese firmata Future Brand, giunta alla sua 8ª edizione. Sul podio quest'anno c'è la Svizzera, che ruba il primato al Canada, secondo. Seguiti poi da Giappone, Svezia e Nuova Zelanda. Gli Stati Uniti scivolano dal 6° all'8° posto. Questa classifica rivela aspirazioni e paure dei cittadini consumatori, ci dice Silvia Barbieri, che è la responsabile strategia di marca di Future Brand. Direi che la Svizzera, dal mio punto di vista, è un indicatore di come nel mondo oggi ci sia bisogno di certezze, c'è la ricerca di luoghi dove si immagina vi sia solidità, tranquillità, qualità della vita. La Svizzera sicuramente in una prospettiva globale rappresenta tutti questi valori. Poi ovviamente credo che sia molto interessante anche andare a vedere i singoli paesi sui singoli indicatori di giudizio, come si sono mossi. Ovviamente la Svizzera esce molto bene su questi indicatori che sono appunto la solidità, la possibilità di fare business e appunto la qualità della vita. Ovviamente su altri indicatori su cui noi italiani continuiamo per fortuna a uscire molto bene, la Svizzera non emerge, ma credo che sia significativo di uno stato d'animo così potremmo definire globale. Non è un caso che la prima sia la Svizzera e la seconda è il Canada. Il lavoro che si sta facendo in Italia e il tentativo di rilanciare il paese ancora evidentemente non emerge nel percepito globale. La cosa ancora confortante è che però per quanto riguarda turismo, arte e cultura continuiamo a essere il paese assolutamente nei sogni di tutti e il riferimento. Valore che secondo me ha ancora più importanza perché non solo per la capacità di generare appunto turismo e quindi già di per sé un indotto, ma perché è come dire la fonte di credibilità per tutte quelle attività di Made in Italy eccellenza che dovrebbero essere come dire il core strategico sui mercati mondiali del paese Italia. Novità di quest'anno la classifica dei prossimi 15, i brand paese che diventeranno i protagonisti del futuro. Emirati Arabi in testa, seguiti da paesi inaspettati come Cile, Malesia, Qatar e Estonia, Islanda anche al settimo posto. Ma i cambiamenti ovviamente riguardano tutte quelle zone del mondo piene di energia, appunto partiamo dagli Emirati Arabi, ma anche assolutamente il Cile, che probabilmente fino adesso sono stati meno sotto l'attenzione di tutti, perché tutti in questi anni hanno sempre solo parlato di BRIC, ma è interessante vedere come paesi che forse hanno anche una complessità sociale ridotta rispetto ai paesi del BRIC, perché o per numero di popolazione o per capacità di controllo sociale o per anche potremmo dire sviluppo e democrazia diffusa, non tutti quelli ovviamente su questo ultimo punto, hanno molto da dire. Cioè, se pensiamo per esempio al Cile, è un paese che ha una capacità attrattiva sul turismo molto elevata, in qualche modo vive dell'onda della rinascita del Sud America senza avere tutte quelle complessità sociali che ha il Brasile, e quindi è sicuramente un attore di domani. Ovviamente questo è un portato della globalizzazione, favorito dalla digitalizzazione del mondo. Chiunque oggi può avere una voce e certamente le energie più interessanti non è detto che stiano dove, come dire, c'è il benessere più consolidato o come dire un corpo sociale statico da decenni. Sicuramente interessante guardare quei paesi dove invece c'è un grande dinamismo e che sono in grado di produrre punti di vista su tutto estremamente interessanti. Quindi credo che la dominanza a cui eravamo abituati o il blocco delle potenze per cui c'erano al massimo due o tre voci non succederà assolutamente più, cioè l'intersezione di attrattività sarà sempre più presente e chiunque potrà giocarsi, come dire, la propria competitività. Quanto valgono per i brand post, condivisioni e recensioni? Voltiamo pagina, parliamo della cosiddetta economia della ricompensa, che premia i consumatori disposti a rispondere alle richieste delle aziende su siti e social network. Un sistema questo agevolato dalla crescita dell'e-commerce e dalla diffusione di smartphone e tablet. Mi piace. Posta commento. Scrivi un messaggio. Condividi filmato. Taggo una foto. A cosa stai pensando? Commenti. Segnala evento. Resta collegato. Rispondi al messaggio. Inizia a chattare. Suggerisci amici. Recensioni, condivisioni, post, iscrizioni alla newsletter. I consumatori possono essere una vera e propria agenzia pubblicitaria per i brand. Ecco perché, per stimolare le loro azioni su siti e social network, c'è chi ha pensato di ricompensarli con un sistema di punti virtuali trasformabili in buoni acquisto e premi. Si tratta di Beans, una startup piattaforma che permette di premiare i fan dei brand con fagioli virtuali da convertire poi in buoni da spendere all'interno del network. Una vera e propria economia della ricompensa, ci dice Marzia Moretti, country manager di Beans Italy. La vera novità, che piacerà sicuramente molto ai clienti, è che si possono fare azioni senza spendere denaro, per cui uno si può iscrivere a una newsletter e può guadagnare dei punti, dei beans, può entrare in un negozio e fare check-in piuttosto che fare la scansione di un codice a barre di un prodotto, rispondere a un questionario e fare, diciamo, azioni che non comportano un acquisto da parte del cliente, e quindi anche in questo caso guadagna dei beans. Oppure semplicemente acquistando dei prodotti e guadagnando beans. Quindi anche nei negozi fisici, non solo online? Assolutamente, la vera novità per la quale stiamo riscontrando un grande interesse da parte dei retailer è che il cliente, basta che entri nel negozio fisico, e se ovviamente il negoziante lo decide, può guadagnare punti semplicemente facendo check-in con lo smartphone o facendo la scansione di un prodotto, quindi si genera poi alla fine molto movimento nel negozio, si riesce a far arrivare nel negozio molte persone, fanno check-in e guadagnano punti. Esiste il rischio che si perda in qualche modo l'obiettività dei commenti? È un aspetto che avete considerato? Si dice sempre che la rete si autocensura quando i commenti non sono genuini. Ma diciamo che ci devono essere, ci saranno delle modalità, diciamo, per moderare commenti che non sono genuini o che non rispettano alcuni standard, per cui questo ovviamente viene comunicato all'utente e ci sarà la possibilità di non erogare beans se per esempio una recensione fosse semplicemente è bello, ecco. Quindi l'obiettivo è assolutamente di tenere uno standard alto, perché sennò si perde il senso ovviamente di tutto il sistema, quindi l'obiettivo è comunque di avere dei sistemi di moderazione importanti, perché poi il cliente faccia veramente un'azione genuina e vera e completa, insomma. Voi avete progetti di espansione europei, perché partite dall'Italia? Partiamo dall'Italia perché con un po' più di anticipo rispetto agli altri paesi, perché in realtà gli italiani sono amanti del gioco inteso come gamification, come si dice adesso, per cui c'è un po' questo gusto del divertimento, del magari fare il check-in, fare la scansione, fare attività sui social network, perché si possono guadagnare punti anche per esempio facendo un like su Facebook o un tweet su Twitter, per cui c'è questo gusto degli italiani nell'usare lo smartphone per attività, diciamo così, ludiche, e la penetrazione degli smartphone in Italia è altissima, per cui siamo uno dei paesi che è sopra la media europea, abbiamo tantissimi smartphone e non ce lo dimentichiamo mai, il telefono lo portiamo sempre dietro, quasi un'estensione del corpo, e quindi in realtà la partenza sull'Italia è un po' un'opportunità per un contesto in questo momento, come dire, molto, molto affine all'utilizzo del telefono. Un'idea questa, lo abbiamo sentito, che nasce dalla forte crescita dell'e-commerce e dalla diffusione dei social network, soprattutto via smartphone e tablet. Quest'anno gli acquisti online sono aumentati a doppia cifra, più 19% in quantità, più 18% in valore, avvicinandosi agli 11 miliardi di euro. Gli italiani che acquistano in rete, pensate, sono passati da 9 a 12 milioni, più 33%. Questi sono i dati aggiornati dell'Osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano, che insieme a Netcom fotografa ogni anno il settore. Alessandro Perego, responsabile scientifico dell'Osservatorio. Il tema della multicanalità e quindi dell'utilizzo combinato di sito, punti vendita fisici, strumenti mobile e anche strumenti social è uno degli elementi che emergono con più chiarezza in tutti i casi di successo che abbiamo esaminato. Ormai è raro che ci sia un'azienda che lavora su un solo canale, anche molte aziende che derivano dal mondo online, quindi delle cosiddette dot-com di un tempo, stanno instaurando rapporti di collaborazione anche con punti vendita fisici, con retailer tradizionali, proprio per assicurare al consumatore tutto sommato tutti i benefici di un approccio che potremmo definire quasi intercanale, proprio per intendere che i diversi canali sono gestiti per il consumatore in modo integrato. Compro online e ritiro sul punto vendita fisico, per esempio. Compro online e vado a restituire il prodotto se non mi piace su un punto vendita fisico. Chiedo assistenza al punto di vendita fisico e tutte quelle miriade di modelli di questo tipo che si possono immaginare. Finisce qui il nostro album dei consumi 2012, puntata riascoltabile come le altre sul nostro sito radio24.it. Veniteci a trovare anche sulla nostra pagina Facebook. A domenica prossima, un saluto e un augurio di buon anno da Maria Luisa Pezzali.